catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Salutoni a tutti e a tutti, e nuova puntata di Senza Frontiere, la rubrica internazionalista di Radio Wombat, che va in onda tutti i lunedì alle 13.30 in diretta e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Nuova puntata di Senza Frontiere e nuova puntata di Hone Grenzen con il suo approfondimento dalla Germania e da Berlino in particolare. Buon ascolto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti ad Hone Grenzen. Oggi parliamo di istruzione scolastica e nello specifico voglio presentarvi la storia della SFE, Schule für Erwachsenenbildung, che significa scuola per l'educazione adulta. Questa infatti è una scuola serale nata negli anni 70 in seguito a uno sciopero studentesco che si opponeva al sistema scolastico in Germania e che tutt'oggi, dopo 50 anni di lavoro, continua ad ottenere successi seguendo un modello educativo definito antiautoritario. Per capire l'importanza di questa scuola, credo sia necessario comprendere come funzioni l'istruzione in Germania. E per fare questo ho chiesto aiuto a due amici, Maike da Berlino e Martin dalla Turingia. Die Arbeitgeberverbände befürworten Benehmunterricht, an den Schulen. Der BDA-Präsident, ein Herr Hund, sagte, Schulabgängern fehlt oft die Kenntnis einfacher Regeln des Zusammenlebens. Der Herr Hund. Einfache Regeln des Zusammenlebens fehlen den Schulabgängern. Der Herr Hund. Das Schulsystem ist in Deutschland in jedem Bundesland ein bisschen anders. Il sistema scolastico in Germania è in ogni stato federale un po' diverso. A Berlino, ad esempio, dalla prima alla sesta classe andiamo alle scuole elementari, ossia dai 6-7 anni. E all'età di 12-13 anni andiamo o al ginnasio o alla Realschule oppure alla Hauptschule. E a quale di queste scuole andare dipende dai voti ricevuti alle elementari. Inoltre viene consegnata a fine scuola una lettera di raccomandazione dalla propria insegnante. Il ginnasio va dalla settima alla dodicesima classe, prima invece era dalla settima alla tredicesima. Credo che questa riforma sia stata fatta per eguagliare un po' il sistema in ogni stato federale. Oggigiorno esiste anche la Zentralabitur, ossia un sistema centrale per adattare le prove di maturità ad ogni regione. Perché prima c'erano differenze troppo estreme, ad esempio la maturità a Berlino non era riconosciuta come quella in Baviera o in Turingia. Sì, da noi abbiamo sempre avuto 12 anni di scuola e avevamo avuto da sempre un Zentralabitur. Zentralabitur significa che hai una prova di maturità uguale per tutti i ginnasi di tutte le regioni. Come detto, quando vieni dalle elementari, che per me è stata di 6 anni, ricevi questa lettera di raccomandazione dai tuoi insegnanti. E sì, se non hai alcuna raccomandazione per il ginnasio, vai alla Realschule. La Realschule arriva fino alla decima classe e alla fine hai un titolo di studio con cui puoi cominciare un Ausbildung, ossia una formazione professionale, ma non puoi andare all'università. Per quanto ne so, se alla Realschule hai dei voti molto molto buoni, puoi fare una richiesta per cambiare e andare al ginnasio. Questo però è molto difficile. In Germania c'è davvero il problema che questa differenza alla quinta o alla sesta classe tra ginnasio e Realschule è quasi una scelta di vita per i bambini, perché la possibilità di passare dalla Realschule al ginnasio è veramente difficile. Infatti di solito le persone concludono la Realschule ed eventualmente scelgono una zweite Bildungsweg, ossia dei corsi serali. Poi c'è una terza scuola, no? Sì, la Hauptschule, ed è il grande problema in Germania, che cercano già da anni di risolvere. Il problema è che gli studenti della Hauptschule, col termine della scuola, non ricevono neanche un Ausbildung, perché credo che imparino molti lavori manuali, e in generale è davvero difficile trovare un posto nel mercato del lavoro. E cosa si impara durante la Hauptschule? Chiaramente tedesco e matematica, ma soprattutto la preparazione a lavori manuali, ossia la Hauptschule riguarda spesso le costruzioni, i cantieri e per le ragazze lavori come parrucchiere e in un modo o nell'altro lavori che consistono in poco denaro e molto lavoro. È davvero un grande problema quando una famiglia, ad esempio, si trasferisce in un altro stato federale. Per me è stato così. Durante l'undicesima classe, ossia un anno prima della fine della scuola, mia madre si è dovuta trasferire a Francoforte, quindi in un altro stato federale, dalla Turingia a Essen. E ad Essen avevano completamente un altro sistema, ad esempio avevano 13 anni anziché 12, ma anche diversi programmi scolastici, e per me in quel periodo era chiaro rimanere nella mia scuola perché sarebbe stato troppo difficile cambiare completamente sistema. Questo è un problema sostanziale perché il mercato del lavoro si aspetta sempre che tu sia flessibile in Germania. Chi decide la differenza di qualità tra maturità ottenute in diversi stati federali? Questo lo decidono gli stati stessi. E credo anche che sia venuto fuori dallo studio di Pisa che ci sono differenze estreme tra stati federali e che, ad esempio, Berlino e Brema rimangano sempre agli ultimi posti. Ossia che maturandi e studenti della Realschule di queste città hanno i peggiori voti di tutta la Germania. Io trovo molto peggio questo. Ad esempio, da noi c'era il problema di un terribile insegnante per i primi 4 anni di scuola, che aveva discusso con molti genitori, tra i quali anche con mia madre. E dei figli di questi genitori nessuno ha ricevuto la referenza per il ginnasio. Io naturalmente non avevo idea di cosa stesse succedendo. A quell'epoca si è troppo piccoli e troppo giovani, ma è un danno per tutta la vita, perché poi alla fine io sono andata alla Realschule e mai al ginnasio. Un altro problema è che è relativamente facile dal ginnasio passare alla Realschule, ossia quando il tuo insegnante ti raccomanda per il ginnasio ma tu ti rendi conto come studente che non ce la fai, non è assolutamente un problema passare alla Realschule, il passo è facile, ma il contrario è assolutamente difficile. Non puoi o non vuoi più studiare in una scuola statale, ma vorresti prendere la maturità? Vorresti una scuola senza censura? Vuoi imparare senza concorrenza? Vorresti una scuola che si oppone al sessismo, al razzismo, all'antisemitismo e omofobia? Allora la scuola per educazione adulta fa per te. Questo è ciò che si legge nella pagina iniziale del sito della SFE. Come dicevamo, la SFE è una scuola serale alternativa per la preparazione alla maturità e ad altri titoli di studio. Si basa su un modello pedagogico strutturato in modo del tutto diverso da quello istituzionale e infatti non ha preside, non ha voti e non ha punizioni. È amministrata dagli studenti e dagli insegnanti stessi ed essendo indipendente dallo Stato si basa sull'insegnamento autodeterminato. Prima però una piccola storia di questa scuola. Nel 1972 ci fu uno sciopero della scuola che si opponeva a un preside autoritario, a un sistema scolastico definito reazionario, a classi sovraffollate, a pressione nelle prestazioni e licenziamenti su basi politiche. Dopo una massiccia operazione della polizia contro gli scioperanti e dopo altri licenziamenti, venne presa la decisione di fondare una nuova scuola, autosostenuta e con pretese emancipatorie. Attraverso passaparola, manifesti ed annunci radiofonici furono trovati 500 studenti interessati e 70 insegnanti pronti ad insegnare nella nuova scuola. Nel 1973 fu fondata la SFE come associazione di pubblica utilità ed ottenne la licenza come scuola complementare per studi serali. Dopo 7 anni, in un piano degli uffici di Berlin-Tempelhof, il vecchio aeroporto all'interno di Berlino, nel 1980 comprò, assieme a molti altri progetti, la struttura di una vecchia fabbrica, l'odierna Mehringdorf. Oggigiorno lavorano alla SFE in 9 classi circa 200 studenti ed 11 insegnanti, così come 4 impiegati. Il costo della scuola è di 160 euro mensili, da cui vengono pagati insegnanti, impiegati e tutti gli ulteriori costi. Gli insegnanti guadagnano 12,50 euro l'ora, che comparato agli insegnanti delle altre istituzioni è decisamente uno stipendio minore. La SFE offre agli studenti la possibilità di riflettere sulla propria posizione e di scoprire una nuova forma di lavoro. Forse è utopico provocare un processo sociale senza obiettivi paralizzanti, incassare esperienze negative senza abbattersi, riconoscere come incompleti senza cattiva coscienza. Il principio utilizzato nella scuola è l'irritazione, ossia non esiste alcuna ricetta comoda, non esiste alcun mezzo magico per apprendere, ma tuttavia è una buona ricetta contro una società in cui tutto è regolato. Ma vediamo un po' come funzionano le lezioni alla Schule für Erwachsenenbildung di Berlino. Innanzitutto non vengono date note, queste vengono date solo sotto richiesta dello studente stesso. Studenti ed insegnanti scelgono assieme i contenuti. Si cerca sempre di distaccarsi dall'insegnamento frontale e i professori possono essere sostituiti in caso di conflitto con la classe. Al contempo, la classe può essere sostituita dal professore in caso di conflitto con l'insegnante. In tutto questo, gli esami che gli studenti devono affrontare alla fine del loro percorso scolastico sono statali, per cui si cerca sempre di orientarsi per quanto riguarda i temi di insegnamento all'interno del piano di studi di Berlino. Una riflessione è che tutti gli studenti alla SFE provengano da un sistema di istruzione statale, per cui bisogna innanzitutto imparare un altro metodo di apprendimento e una delle difficoltà più grandi è riconquistare la curiosità e cercare la motivazione personale per l'apprendimento. Ci si chiederà come mai non vengano date le note e questo è perché i voti sembrano obiettivi ma non dicono niente del progresso d'apprendimento dello studente. Sono invece un mezzo di pressione per la motivazione e per la disciplina e agiscono come freno alla curiosità, ossia ci si focalizza sul prendere un voto alto ma non ci si concentra sulla materia appresa. Le lezioni incentrate sui voti infatti sono strutturate senza relazione tra professore e studente e questi sviluppano una concorrenza e costruiscono una gerarchia tra gli educandi. Però questa scelta di non valutare attraverso voti il lavoro dello studente non significa che non si rifletta sulle forze e sulle debolezze del singolo studente, anzi si trova molto più sensato una precisa analisi delle carenze così da permettere di sviluppare nuovi metodi di lavoro e strategie di insegnamento. Infatti non si perde mai di vista l'obiettivo dell'esame finale che, torno a dire, è statale e quindi si basa su programmi scolastici definiti. Dein Sound will Sex, Drugs und Wack. Doch dein Sound kann einfach nicht wohnen. Dein Sound liegt auf ewig in nem Sarg. Doch glaubt an Reinkarnation. Dein Sound klingt wie Tupac nur im Weiß. Doch macht auf Rammstein nur in Schwarz. Dein Sound ist der lebende Beweis, dass Gott dich irgendwie nicht mag. Dein Sound ist schuld am Krieg im Irak. Dein Sound ist schuld, dass Menschen hungern. Unser Sound ist stirbt langsam fünf. Und die Welt geht jetzt unter. Crash dein Sound. Sound liegt in Ketten. Dein Sound kratzt an der Oberfläche. Denn dein Sound hat nix drunter. Dein Sound ist einfach schlecht erzogen. Denn er bringt den Müll nicht runter. Dein Sound ist schuld am Krieg im Irak. Dein Sound ist schuld, dass Menschen hungern. Unser Sound ist Herr der Ringe 4. und die Welt geht jetzt unter. Crash deine Menschheit viel zu lang leiden. Dein Sound ist schuld an allen Umweltkatastrophen, an Selbstmord, ach was, an jeden einzelnen Toten. Dein Sound ist schuld an Geisteskranken und an Kinderschändern. Wegen deinem Sound gibt es Terror und den 11. September. Dein Sound ist schuld am Krieg im Irak. Dein Sound ist schuld, dass Menschen hungern. Unser Sound ist Alarmstufe Rot 3 und die Welt geht jetzt unter. Crash dein Sound. Questa impostazione dell'apprendimento fa sì che lo studio si sviluppi in tre fasi che gli insegnanti della SFE definiscono: fase 1, entusiasmo verso la nuova scuola, fase 2, disincantamento, perché si comprende che si deve comunque studiare, e fase 3, panico produttivo, che ti porta a studiare al fine di ottenere la maturità. Istruzione anti-autoritaria e democratica significa che, accanto allo studio in sé, quasi tutte le decisioni all'interno della scuola vengano prese secondo il principio per cui studenti, insegnanti e impiegati d'ufficio corrispondano, ogni persona corrisponde ad un voto. Ed è questo sistema che scandisce la vita quotidiana all'interno della SFE. Infatti, il termine educazione anti-autoritaria non significa che l'educazione è senza confini, ma il contrario. Si basa su un rapporto di fiducia sviluppato tra educatore ed educando, con regole e limiti ben conosciuti, che non intacchino però lo sviluppo personale dell'individuo. Gli educandi, infatti, devono essere responsabili di se stessi e accentare le conseguenze del proprio comportamento. A questo punto c'è da chiedersi se esista una scuola ideale. E questa è la domanda attorno a cui tutti gli operatori scolastici, gli studenti, i genitori si interrogano ormai da anni. Bisogna anche ammettere che ogni Stato federale ed ogni sistema educativo pensa di essere il migliore. E questo vale anche per gli insegnanti della Schule für Erwachsenenbildung, che però basano la propria filosofia di scuola cercando di sviluppare la curiosità, l'amicizia e la soddisfazione da contrapporre all'odio, all'intolleranza e all'egoismo. Ciò che gli insegnanti ritengano importante, oltre alle nozioni stesse, è raggiungere le seguenti competenze, ossia lavorare su se stessi, avere una disciplina di lavoro costruttiva, indagare in maniera critica, imparare a diversificare ciò che è importante e ciò che non lo è, assumersi delle responsabilità per se stessi e per la collettività e credere in sé e nelle proprie scelte. Ossia un cittadino in grado di porsi in maniera critica rispetto ai fatti del mondo e non assumere tali fatti come se fossero verità assolute. In tutti questi anni la Schule für Erwachsenenbildung ha ottenuto molti risultati positivi e infatti nel 2016 hanno ottenuto un premio molto importante e hanno vinto il secondo posto della Deutsche Schulpreis, uno dei premi più prestigiosi per l'insegnamento nella Germania. In seguito, nel 2017, è uscito un documentario molto bello che si chiama Berlin Rebel High School, il cui regista è stato studente all'SFE, che segue la quotidianità di questa scuola e mostra in modo pratico come avvengano le cose all'interno dell'istituto. Nello specifico segue la storia personale di 5 studenti e alla fine dell'anno di questi 5 studenti 4 riescono a conseguire la maturità e uno no, ma che riesce comunque a conseguirla l'anno successivo. Io ho avuto la fortuna di vedere il film, mi ha molto colpito è che davvero gli studenti sono del tutto responsabilizzati della propria scelta di voler studiare e che ogni problematica viene analizzata e discussa tra professori e studenti stessi. Inoltre trovo molto importante che gli studenti si occupano di tutte le mansioni all'interno della scuola, quindi vengano responsabilizzati anche attraverso mansioni semplici quali pulire il bagno oppure preparare la merenda per gli altri. Un buon leader non forma seguitori, un buon leader forma altri leader. Das melodias, tira o som do Bob Marley. O Ministério da Música adverte: se você sofre de consumo excessivo de música rap, considere-se diagnosticado. Ao persistirem os sintomas, o microfone deve ser consultado. Tipo insano musical, eu já fui comprovado. Quero realizar meus sonhos, mas sempre acordado, exagerado e jogado aos pés de rimas e poemas que exerce tanta atração que te prende sem pôr algema. Independente da quebrada, tem que saber chegar. Aqui se faz, aqui se paga e as ruas sabem cobrar. Made in favela, produção de primeira. É o rap no bagulho, ultrapassando as fronteiras. Aber es gibt Hoffnung, ja, es gibt sie. Wir haben uns gelehrt, sind gewachsen und haben sie verdient in der Peripheria. Oder Berlin schreiben wir unsere Lieder. Das ist Street Poetry, das könnt ihr uns nicht mehr nehmen. Das könnt ihr auch nicht verstehen. Wir bauen unsere eigene Kultur selbst auf und errichten unser eigenes System. Eine Bildung existiert doch nur auf Papier. Aber wir haben uns die Lebenskunst existiert. Weiter as ideias dos prédios do asfalto quente. Ao morro, viela abaixo, rimas engatilhadas no peito. Ocupação de território igual grafite. DJ controla o beat, risca e enriquece o beat. Fazemos social, arte real, hip hop, impressionismo tipo Van Gogh. Nós não enxergamos classes, fronteiras ou dogmas. Se não for por amor, então passamos pela lógica. Juntos somos fortes, imbatíveis, não heróis. Nos dias de hoje, ninguém morre por nós. Morremos na fala, veneno de Naja. E os interesses coletivos pra stand-up são piadas. O som é a magia que espanta a paranoia. No medo da vitória, truta, luta, tenta glória. Rasteja sobre o ventre como cobra. Aquele que vive de sobra vê a vida por baixo, é osso, moia. Per concludere vorrei ringraziare Enrico che per primo mi ha accennato a questa scuola. Spero che l'argomento vi sia interessato e per qualsiasi approfondimento vi rimando al sito della SFE. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.